tutto passa, ma l'anima collassa. Gli anni non tornano indietro e mi ripeto tutto passa. Tutto passa, non ho nulla di concreto. Vado avanti un altro metro e mi ripeto tutto passa. Tutto passa, il concetto è andare oltre. Ho rime capovolte, il mio suono ti oltrepassa. Tutto passa, devi essere più forte. Anche se essere forte a volte non ti basta. Chi sotterra lascia da guerra la faccia per terra. E stai sicuro che non si rialza. Chi possiede la forza interna, la vita l'afferra e nessuno l'ammazza. Il fatto è che c'ho l'ansia e non solo por dinero, e me la porto dietro dall'infanzia. E non è che dico questo per mettere i miei cazzi in piazza, ma a casa mia chi non ce la fa si rimpiazza. Vorrei tanto andarmene in vacanza, ma so che questa resta solo una speranza. E mi ripeto tutto passa, quello che è stato, non penso più al passato e questo mi rilassa. Tutto passa, ma l'anima collassa. Gli anni non tornano indietro e mi ripeto tutto passa. Tutto passa, non ho nulla di concreto. Vado avanti un altro metro e mi ripeto tutto passa. Tutto passa, ma l'anima collassa. Gli anni non tornano indietro e mi ripeto tutto passa. Tutto passa, attaccato a un bon di vetro, fatto al punto che non vedo e mi ripeto tutto passa. Tutto passa, so che a tutto c'è rimedio. Non possiedo soluzioni, rimedio a tempo intermedio. Sblocco un blocco interiore, superiore all'assedio. Indico un cielo indaco, ma col dito medio. Cerchi un impiego, impiegato come ripiego. Io piego e rilego, poi rileggo e mi spiego. No di che slego nei momenti più brutti. Siamo sulla stessa barca, quindi buon vento a tutti. Tutto passa col buon vento e per la stragrande. Do le risposte in assenza di domande. Ste bande sopra i fogli reggono quanto una tasche. Io c'ho la musica nel cuore come August Rush. Sul quaderno un collage dal passato al presente. Non ho mai detto tutto quello che ho vissuto a questa gente. Nella mente sempre lei ed è questo che mi rilassa. Oggi è un giorno in meno e mi ripeto tutto passa. Tutto passa, ma l'anima collassa. Gli anni non tornano indietro e mi ripeto tutto passa. Tutto passa, non ho nulla di concreto. Vado avanti un altro metro e mi ripeto tutto passa. Tutto passa, ma l'anima collassa. Gli anni non tornano indietro e mi ripeto